situati sui punti del dragone, città tenuta in piedi da cosmiche energie misteriose, anelli di pietra. Uomini e donne corrono intorno, la trance in un'estatica danza si disperde nell'aria magica. Scrutare l'universo, nudi tra minir silenziosi, attendiamo l'uccello di fuoco. Si trasforma nell'arcobaleno, il respiro fluisce come un fiume nel corpo, i nostri respiri sono il suono del mare. Seguiamo la luna. L'acqua sorgeva, le parole del vento, i rumori.